Noi come ADL Cobas abbiamo avuto a che fare con delle categorie, cioè ci hanno contattato le categorie che si ritrovano molto in difficoltà in questo momento. In primis gli educatori e le educatrici delle scuole che si ritrovano chiuso il luogo di lavoro e non retribuito per queste 2 settimane. In più stiamo cominciando a fare tutto un percorso con i lavoratori dello spettacolo, perché l'ordinanza porta anche la chiusura di cinema, teatri, club, posti in cui fare musica, eventi, fiere, e quindi ci ritroviamo con centinaia se non migliaia di lavoratori dello spettacolo della più varia forma contrattuale o comunque mansione, senza un reddito, tra l'altro mai considerati all'interno insomma delle istituzioni. E poi abbiamo tutte le partite IVA, le piccole imprese che non possono entrare all'interno degli ammortizzatori sociali come cassa integrazione, stanno meno di 5 dipendenti, e qua abbiamo un grosso vuoto da parte delle istituzioni che fino adesso, anche con il decreto che è uscito l'altro giorno, non ha assolutamente toccato la parte salariale e la possibilità di trovare delle soluzioni per queste persone. E quindi come, secondo ADL Cobas, secondo te come si possono coniugare salute e reddito? Cioè quali sono le richieste e come si traducono poi in politiche concrete? L'attivazione di ammortizzatori sociali dove possibile, cassa integrazione e FIS, ma portando a un reddito più alto. Cassa integrazione e FIS coprono l'80% più o meno, ma sembrerebbe una grossa perdita così, quindi portando a utilizzare quei fondi che già nell'INPS ci sono e che per esempio i lavori dello spettacolo versano, ma che non riescono mai comunque a utilizzare. Una forte da parte della regione impegno anche per riuscire a trovare dei fondi, e mi pare che si voglia andare in questa direzione, ma il problema è che dopo 8 giorni siamo un po' in ritardo, perché i lavoratori non sanno effettivamente la busta paga che gli arriverà adesso a febbraio come sarà, dei fondi per poter sostenere i lavoratori autonomi, come peraltro è già stato fatto anche nelle zone rosse, per esempio con l'ultimo decreto, e comunque all'interno per le cooperative, perché anche le cooperative stesse insomma stanno subendo una forte crisi e le cooperative stesse anche dovrebbero reinvestire su questo. Come commentate la chiusura di tutte le iniziative culturali mentre invece restano aperti altri luoghi di incontro tra virgolette, come per esempio i grandi centri commerciali? Per noi questa cosa è un po' assurda, appunto, ma non soltanto i grandi centri commerciali, io pongo anche un problema sui grandi magazzini della logistica, per esempio, che rimangono aperti con 200-300 persone che lavorano all'interno, perché in questo momento poi la richiesta della vendita magari al dettaglio, ci sono i supermercati che rimangono chiusi, tutti vanno nei centri commerciali, e il settore logistica ha un hype di richieste e ci sono centinaia di lavoratori che stanno dentro magazzini chiusi mentre gli eventi vengono completamente cancellati. Io credo che questa sia stata anche una scelta forse fatta con un po' di leggerezza, non vorrei dopo azzardarmi a dire che è sbagliata, però come si può vedere i musei adesso stanno anche cominciando a riaprire con delle entrate controllate, però ecco, forse anche un po' la paura, no? Che stanno tentando di portare avanti, chiudere i luoghi di socialità, mentre per esempio il TPO ad esempio aprirà per dare sostegno a tutti quanti i genitori che hanno i bambini a casa durante questa settimana, durante il giorno, quindi tutti quanti i luoghi di cultura, tra l'altro adesso so che c'è un tavolo in comune dove si trovano a parlare di questo, sapremo cosa verrà fuori, non può essere anche quello chiuso senza avere una conseguenza forte, diciamo, cioè il settore ne sta soffrendo tantissimo. A proposito di questi divieti, di assembramenti, ma l'appuntamento lanciato dai Cobas è per domani alle ore 10 con un presidio della regione, come rispondete a questo divieto appunto dell'ordinanza? staremmo a un metro l'uno dall'altro, come nei luoghi pubblici. Allora io invito tutti, tutte e tutti a venire domani mattina alle 10 per sostenere le categorie più colpite, ma alla fine io credo che tutti, in un modo o nell'altro, tra chi lavora di più e chi lavora di meno, siamo colpiti. Quindi chiediamo, andiamo sotto la regione a richiedere che finalmente siamo di essere ascoltati e di parlare di salario garantito per tutti quanti. È una soluzione, adesso che pare che la questione sanitaria si sia stabilizzata, una soluzione insomma per tutte le cittadine e cittadini dell'Emilia Romagna.